24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:33 minuti, buongiorno cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 con 24 mattino. E allora il nostro sondaggio di oggi, parliamo di politica, la scelta del neo ministro Brancher di avvalersi del legittimo impedimento per bloccare al momento e rimandare il processo in cui è imputato. Che ne pensate? Ha fatto bene? Questo vi chiediamo. Su radio24.it dovete votare, per ora vincono nettamente i no, quindi criticano questa scelta l'86%. È uno dei temi di politica, certo, ma come dire, i giornali oggi potrebbero essere davvero listati a lutto per gli azzurri. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, Inspired Performance. Vi presenta In Primo Piano. Non a caso lo dico, in questo venerdì 25 giugno, tutto nero è il titolo della Gazzetta dello Sport. Ma poi, come dire, azzurri, la disfatta e la vergogna per il Corriere della Sera. Azzurri, vergogna e lacrime per Repubblica. La Stampa, il mondiale della vergogna. Libero, bidoni del mondo. L'Unità, povera Italia, mette Lippi ma anche Berlusconi. Disfatta Italia, fuori senza onore per il Messaggero. Il Manifesto mette Cannavaro che consola, credo, Quagliarella in lacrime. Cambiamo squadra. E è così, è il disastro azzurro. Leggo solo l'apertura del Sole 24 Ore per quel che riguarda la notizia economica. L'industria vede la ripresa, una ripresa che c'è anche se l'Italia cresce meno di altri paesi, e questo è emerso dal seminario di Confindustria. Ma se oggi leggerete le prime pagine, diciamo le prime 6-7 pagine dei giornali, tutti i quotidiani, troverete questi termini: Waterloo, disastro, peggio della Corea, vecchi scarponi, l'Italia peggiore di sempre, siamo cavalieri della vergogna, falliti. E questa è la terminologia usata un po' da tutti. Il disastro dell'Italia, mai dal 74 era uscita al primo turno dei mondiali. Ebbene sì, tutti intervistano Gianni Rivera, che era lì anche con la Corea del Nord. La Corea fu una vera sorpresa, stavolta è normale. Pagina 8 del Corriere della Sera, Gianni Rivera parla del disastro, dice ormai, insomma, ci penserà Prandelli, parte da una situazione ideale, cioè da zero. Però, dice Gianni Rivera, è sbagliato chiedere scusa. Gattuso invece dice ci faranno cavalieri della vergogna. E poi è un profluvio di interviste, per esempio anche interessanti, Il Fatto Quotidiano intervista pagina 2, Il Fatto Quotidiano che titola in prima pagina Azzurri specchio del paese. Carlo Verdone dice ma Lippi dice che erano terrorizzati, ma terrorizzati di che? Dice Verdone, forse quelli della Corea del Nord lo sono, che magari quando tornano a casa chissà che gli fanno. E poi sull'Italia, la nazionale ormai non interessa più, meglio interessa ai francesi, ai tedeschi, agli inglesi, a noi. Noi domani diremo ce lo siamo meritato. La nazionale, allora chiede Silvia Truzzi, è come la Costituzione, non interessa nessuno? Ma sì, siamo totalmente anestetizzati, tutti erano già pronti all'eliminazione. E poi insomma le critiche, avrei portato Balotelli anche se sono di Roma. Dopodiché troverete tanti tanti politici. C'è cosa peggiore dei politici che commentano, partendo da prendendo spunti politici, le partite di calcio? Anche qui, eppure titoloni. La Russa sul Corriere della Sera, Bossi, tutti, anzi tanti brinderanno a pagina 11 del Corriere. Una squadra spompata, Lippi, un uomo arrogante, testardo, estremamente arrogante. Ora sto con l'Inghilterra, almeno c'è Capello. E poi sulla questione dei premi ancora, io condannai quando ho criticato Calderoli, ma Cannavaro ha detto che l'Italia era un paese ridicolo, io ho difeso gli azzurri, condannai le parole di Cannavaro, ma poi racconto questo piccolo retroscena, evitai di andare alla prima partita della nazionale contro il Paraguay proprio per evitare che, lascia puntini di sospensione, come dire, di litigare forse. Ora per chi farà il tifo? L'Inghilterra. E invece dall'altra parte c'è Calderoli che già dice troppi italiani, sono ridicoli, gambe di gelatina, troppi stranieri nel campionato italiano, ora basta, tutti pagati tantissimo, che vergogna. Vabbè, insomma, l'Italia dei valori che gli dà del razzista, vabbè, c'è anche questo, i commenti dei politici, insomma l'Italia troverete tantissimo. C'è anche Mattia Feltri, pagina 9 della Stampa, la maratona in aula non ferma al Bar Sport, con tutti i parlamentari che dicevano la partita, e poi chi si è armato con i BlackBerry, chi con l'iPhone, chi ha visto alle 15.50 si sono misteriosamente accesi tutti i computer dei parlamentari in aula, quello che smanettava e malediceva la tecnologia perché non riusciva a vedere la partita, quello che ce la faceva. A un certo punto, mentre parlava la leghista Goisis, c'è stato un boato. La Goisis si guardava intorno incredula del suo successo oratorio. In realtà l'entusiasmo era per il gol del 2-1, dell'1-2 meglio, dell'Italia, che riaccendeva un pochino le speranze. Il Fignano Granata sveniva di felicità addosso alle colleghe leghiste. Italo Bocchino abbracciava famelico Fabrizio Cicchitto, superando tutte le incomprensioni correntizie in una carnalità che il reggente, il vicepresidente Antonio Leone, scambiava per agguato. Lasciate stare il collega Cicchitto. E vabbè, la partita vista anche in Parlamento. Tanto che qualcuno, ho letto, avrebbe beccato il ministro Brunetta con le cuffiette. Ma come? Il ministro Brunetta forse aveva delle cuffiette. Qualcuno ha detto: ma ministro Brunetta, ma lei non era quello che non voleva far vedere la partita agli statali? Come mai aveva le cuffiette? Forse aveva le cuffiette Brunetta, e soprattutto in quelle cuffiette c'era la partita di calcio? Vai a saperlo. Il nuovo incubo, pagina 9 di Repubblica, non è più il dentista, che poi era un finto dentista coreano, Park Do-hyuk, ma Wittek, che ci ha fatto due gol. Robert Wittek, uno che ha giocato, se gli andava bene finora, in seconda divisione nel Norimberga in Germania, poi è stato scartato perfino dal calcio turco, ha fallito ovunque, l'hanno regalato alla squadra dell'Ankara Gücü, e che ha commentato alla fine della partita ridendo con tono isterico: non so neanche come ho fatto a fare due gol agli campioni del mondo. Wittek è il nuovo incubo azzurro. Vabbè, parliamo di politica. Come detto, il legittimo impedimento chiesto dal neo ministro Brancher è certamente il tema politico del giorno, che viene trattato da tutti i giornali. Legittimo impedimento, richiesta di Brancher, opposizione all'attacco. Le critiche e le perplessità sono pressoché unanimi. Il neo ministro parla, qualche battuta al Corriere della Sera. La parola federalismo, Bossi ne è geloso, sono il primo a capirlo. Il legittimo impedimento, dov'è lo scandalo? Avrei potuto chiederlo di 6 mesi, mi sono limitato a 3 per organizzare al meglio l'ufficio. Ho chiesto solo una cosa di buonsenso, ragionevole, ma qui si maledice sempre il prossimo. Andate a vedere il mio lavoro da sottosegretario, sono sempre stato uno dei più presenti in Parlamento. E poi devo organizzare il ministero, devo per esempio scegliere il capo di gabinetto, gli altri collaboratori. È difficile fare tutto questo e ho intenzione di proseguire. In più ricordate che non beneficio della prescrizione dei termini. Ci vorrebbe un po' di onestà intellettuale da parte di tutti. I miei colleghi dovrebbero evitare di trasformarsi in giudici su cose che non conoscono nemmeno. Mi giudichino dal mio lavoro. Però certo, questa decisione del neo ministro Brancher ha scontentato un po' tutti. La battuta che certamente farà un pochino più discutere, o comunque che viene messa solo dal Messaggero a pagina 8, viene messa all'interno dell'articolo da Gerusalemme, dove c'è il presidente della Camera Gianfranco Fini in visita, è questa proprio: lo sconcerto di Fini. In realtà dichiarazioni pubbliche non le ha fatte, ma Claudia Terracina, che evidentemente era vicino a lui, eccolo lì che cosa coglie quando inizia a vedere le agenzie che arrivano dall'Italia. E ti pareva, esclama visibilmente seccato Fini mentre scorre le agenzie che il portavoce Fabrizio Alfano gli ha appena letto. Non hanno aspettato nemmeno un minuto. È una cosa che si commenta da sola. Questo Gianfranco Fini. Ma certo anche la Lega è molto imbarazzata. Tra la Lega e l'amico Aldo adesso scende il gelo. Hanno truffato il senatur. Pagina 13 del Repubblica e Paolo Verizzi. Per bucare l'imbarazzo della Lega in queste ore servirebbe un punteruolo, ma forse basta registrare la diplomazia sibillina di Bossi. Non so niente, chiedete a Brancher. Ma certo la base della Lega, come l'onorevole Grimoldi, viene da pensare male, o l'onorevole Stucchi, se fossi in Brancher non invocherei il legittimo impedimento, andrei in tribunale. Un disagio, insomma, palpabile, che viene colto, pensate, anche da molti editorialisti. Per esempio Pierluigi Battista già aveva avanzato qualche dubbio qualche giorno fa, e oggi sul Corriere della Sera ci ritorna in prima pagina quel legittimo sospetto sulla nomina di Brancher. Dice: avevamo questo sospetto, ma certo non è stato ora uno spettacolo politico brillante e avvincente, anzi sembra un gran regalo all'opposizione, un'innovazione nella prassi di governo. Dicono che Bossi e Fini, i duellanti, stavolta abbiano trovato la concordia in un sentimento comune, la rabbia per la nomina di Brancher. Legittimo sentimento. Anche il giornale è critico. A pagina 2 c'è l'articolo di politica di Salvatore Tramontano, e il titolo è questo: appena sceso in campo Brancher fa già autogol. Il neo ministro Aldo Brancher è stato un po' troppo zelante e frettoloso, non ha avuto neppure il tempo di sedersi al ministero giusto che già si è giocato il jolly, legittimo impedimento. La foga di Brancher vale il passaggio sbagliato di De Rossi, da cui è nato il primo gol della Slovacchia. La domanda è: era davvero necessario chiamare in causa il legittimo impedimento? Un mese, tre mesi sono così fondamentali? Cosa ha da fare il ministro? La risposta è un po' stiracchiata. Devo organizzare il mio ministero. Sono solo e non ho neppure il capo di gabinetto. Critico durissimo Antonio Padellaro in prima pagina del Fatto. Possiamo dire che si è polverizzato ogni limite di decenza umana? Che dice il Presidente della Repubblica? Così come Giuseppe D'Avanzo in prima pagina di Repubblica: c'è qualcosa di umiliante, illuminante in questo affare, ci mostra in quale abisso di degradazione sono state precipitate le nostre istituzioni. Ci dice questo, che le istituzioni coincidono ormai con le persone che le incarnano, anzi con la persona, quel solo uomo, il Cesare di Arcore, che le possiede tutte come cosa sua, ditta sua. Insomma, fa molto discutere. Che ne pensate, questo legittimo impedimento? Dovete votare su radio24.it. Ha fatto bene, secondo voi, il neo ministro Brancher ad avvalersene oppure no? In primo piano. La ripresa c'è con qualche zavorra. E questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore, che, come detto oggi, come tema economico sceglie la lettura emersa dal seminario di Confindustria sulle previsioni congiunturali. Stime riviste al rialzo rispetto a dicembre, più 1,2% rispetto all'1,1% per il 2010, 1,6% nel 2011 rispetto all'1,3%. Ma certo, il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, dice: non è tutto oro qualche luccica, voglio dire, si cresce, ma lentamente, ci sono anche tante zavorre, tante riforme da fare, e quindi l'occupazione, per esempio, è ancora a rischio. E dunque si cresce, ma l'Italia, insieme all'Europa, cresce meno di altri paesi, e restano appunto queste zavorre che potrebbero incidere sulla dinamica futura. Dunque, bene il rigore. A partire dal fisco, a partire dalla lotta all'evasione fiscale, a partire dalla semplificazione burocratica, ma bisogna poi eliminare anche altre problematiche. Tra l'altro, sullo sfondo c'è ovviamente sempre la manovra. La manovra con le regioni molto arrabbiate, per usare un eufemismo. Ora dicono i governatori: rendiamo i poteri, le rendiamo allo Stato centrale. Questa pagina 5 del Sole, Roberto Turno. C'è per la verità però anche una Corte dei Conti, sempre a pagina 5, che ancora una volta dice: questi enti locali spreconi, spendaccioni, luoghi per prebende, gettoni di presenza, poltrone ad amici, a manager, a consulenti a valanga. Insomma, sempre il solito problema italiano: centri di affari e di sperpero di denaro pubblico che resistono a dispetto dei sogni riformatori, troppi sprechi. Mentre sale la tensione col governo, insomma, la Corte dei Conti ancora fa l'affondo impietoso contro governatori, sindaci, province, luoghi dove ci sono troppe poltrone, prebende e sprechi. E Roberto Turno ne parla proprio sotto l'articolo che spiega il rapporto Regioni-Stato a pagina 5. E a questo proposito parla Roberto Calderoli di cose un po' più serie che l'Italia, no? A pagina 18 della Stampa, in un'intervista ad Alessandro Barbera, parte dall'Italia, ma solo per dire una squadra ridicola, stendiamo un velo pietoso e parliamo di cose serie. E poi dice sulle regioni, capisco la protesta, capisco anche che perché l'articolo della manovra è stato scritto non benissimo. Questo ha permesso ai governatori di fare i furbi, ma abbiamo già detto che lo cambieremo in modo che potranno modulare i tagli come credono, colpendo gli sprechi all'interno dei loro bilanci in qualunque comparto vengano individuati. Ma 4 miliardi di tagli sono pur sempre il 3% di 178 miliardi, cioè il totale del loro bilancio delle regioni. 107 sono i trasferimenti della sanità, il resto è ciò che hanno per tutte le altre funzioni. E dunque, facciano un esame di coscienza. Il federalismo è anche questo, non si possono coprire a vicenda sugli sprechi e le ruberie, dice Calderoli. Insomma, i tagli sono quelli, la discussione è finita, questo ha deciso Tremonti e così deve essere. Mentre il grido d'allarme sul Corriere è del presidente della regione Sardegna Cappellacci, che dice: vuoi vedere che vogliono cancellare gli statuti speciali delle regioni? Il governo sappia che su questo noi, con Sicilia, Friuli, Valle d'Aosta e Trentino, faremo muro assoluto. Non è un regalo della politica quello dello statuto speciale, ma ha ragioni storiche ineliminabili. D'altronde, qualche giorno fa ricordate che Tremonti ha detto: bisogna tornare al detto evangelico, chi più ha più deve dare. E Dell'Ai, che è il presidente del Trentino, della provincia di Trento, ha detto: Tremonti è un provocatore. E infatti Dell'Ai, e da qui forse anche Cappellacci, dice: vogliono toccare gli statuti speciali? Chissà. Certo, invece, chi è sicuro che vogliono toccargli la poltrona e rubare il voto è il presidente della regione Piemonte, Cota. Chi ci ha seguito ieri anche alla Zanzara di sera, anche stasera può farlo, tra l'altro, abbiamo intervistato Mercedes Bresso, era con noi, e Mercedes Bresso ha fatto questo ricorso per annullare le votazioni. Si esprimerà il 1° luglio il TAR per alcune liste per le quali le firme sarebbero state palesemente taroccate. Ecco il grido d'allarme di Cota, prima pagina della Padania: ci vogliono rubare il voto. Intervista al Libero: c'è una manovra politica per farmi cadere. Intervista al Giornale: la sinistra prepara il golpe. I rumors danno proprio questo. Secondo i bene informati, e Cota dice ci vogliono rubare tutto, c'è il rischio che si debba andare a votare in Piemonte per alcune palesi irregolarità, tanto che Cota lunedì farà una marcia di protesta contro questo. Oh, c'è Berlusconi che è in Canada, se l'è presa coi giudici, perché il giudice Marina Zelante, siccome hanno posto il legittimo impedimento per il caso MediaTrade in cui è imputato anche con Confalonieri, il giudice Marina Zelante ha replicato: la legge sul legittimo impedimento è illegittima perché le prerogative assegnate al Premier richiedono una legge costituzionale, dunque atti alla Consulta, processo sospeso. Berlusconi si è arrabbiato. È la solita Corte Costituzionale che ormai fa il controcanto al governo. La Consulta fa da contropotere al governo. Vabbè. Io mi devo fermare, voglio solo segnalare la prima pagina, no, voglio segnalare una cosa, che è quella di Dell'Utri. Dell'Utri domani è atteso il verdetto, è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, domani il secondo grado. Segnalo solo che Dell'Utri parla al Corriere della Sera, pagina 27, nessuna prova. Non serve a niente esserci al processo, i giudici sanno che non ci sono prove, il procuratore generale è un replicante di un pezzo della Procura della Repubblica, se mi assolvono non avrò nulla di cui gioire, hanno già distrutto la mia vita. E se dovessero davvero condannarmi, chi se ne frega? È l'effetto della mia tranquillità, se avessi patito tutto questo ci avrei lasciato la pelle, come è accaduto a tante persone colpite da malanni e tumori. Ci sarà pure un giudice capace di riconoscere i reati penali dalle minchiate, no? Questo dice Dell'Utri. Accuso i miei accusatori, il procuratore generale è il ventriloquo del procuratore aggiunto Ingroia. Quella di Spatuzza, una cosa comica, spuntato all'improvviso. E viceversa c'è il carcere. Beh, uno si adatta. Chi l'ha detto che è un male? Infine voglio segnalare, oggi esce 24, il mensile 24 associato al Sole 24 Ore. La parola di questo leitmotiv è l'altro, molto interessante, l'altro in tutti i campi. Per esempio, un sindaco a New York, Bloomberg, che assume un imam al dipartimento di polizia. Oppure un esperto in grandi negoziati, consulente del presidente americano, secondo il quale le tecniche tradizionali di contrapposizione frontale hanno perso ogni efficacia. Il Ruanda, dove si fronteggia l'altro, dopo le vittime del genocidio del 94. Sono le 8:16, eccoci qui nuovamente in diretta a concludere la settimana di Soldi Dintorni con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Allora, buongiorno. Buongiorno. Non si parla di calcio, eh? Ma come no? No, questo dobbiamo. Trionfo azzurro. Anch'io, guarda, non me l'aspettavo ieri, veramente. No, devo dire che ho visto il secondo tempo, quindi quello che è stato un po' più confortante. Ah sì, è stato un po' più confortante il secondo tempo, dici? Perché abbiamo fatto due gol. No, perché stavo andando a casa praticamente all'ufficio e arrivo a casa, già ne avevamo preso uno. Dico, Ale, cominciamo bene, poi il secondo era quello che mi risulta andata un po' meglio. Sì, mettiamola, cari italiani, che ne pensate? Il secondo tempo di ieri è stato meglio del primo? Sì, bel sondaggio sarebbe, hai visto come te l'ho messa lì su un piatto d'argento? Vabbè, ma adesso per chi tifi tu? Che cosa fai? Io ho sempre tifato Corea del Nord. Ah, non lo sapevo, no, io invece per questioni affettive l'Argentina, guarda un po' dove mi butto. Ovviamente ho sempre tifato Italia e Corea del Nord, affettive l'Argentina. Ho amici che mi stanno spingendo verso quella squadra. Guarda, abbiamo perso due minuti di tempo. Vabbè, indagheremo. Buongiorno, saluto l'avvocato Francesco Luongo del Movimento Difesa del Cittadino e gli chiedo subito a questo punto, lui per chi tifa? Ma sicuramente sempre per l'Italia, come da quando ero bambino e ho visto i primi mondiali in Argentina. No, ma io mi chiedevo adesso in questo mondiale del Sudafrica, che per l'Italia è sfumato, che cosa, se ha un orientamento guardi, diverso. Qualche simpatia sicuramente va all'Argentina di Maradona. Ah, anche lei. Il personaggio, insomma, è simpatico. Guardi, ritorniamo alle nostre amenità telefoniche, avvocato Luongo, e spiego subito ai nostri ascoltatori i motivi per cui per Soldi e Dintorni questa mattina l'abbiamo interpellata. Peraltro non l'ho ricordato, l'avvocato Luongo è segretario nazionale di questo movimento, oltre che responsabile nuove tecnologie e servizi a rete. Cosa è successo? Che capita spesso, ne leggiamo frequentemente sui giornali, che le compagnie telefoniche si vedano appioppare dall'autorità garante del mercato sanzioni anche piuttosto importanti, tanti, per numerose infrazioni che commettono, quantomeno come tali sono definite e denunciate appunto dai consumatori. Può capitare che ci comunichino variazioni di piani tariffari o ci diano altre informazioni importanti tramite SMS nell'ottica di un chi tace acconsente, che ne siamo sicuri non piace molto ai consumatori. Cosa è successo due giorni fa, anzi tre forse, martedì scorso, che c'è stata una sentenza del TAR del Lazio che a questo punto costringerà gli operatori delle telecomunicazioni a mettere nero su bianco le variazioni contrattuali, impedendo la comunicazione tramite questi messaggi di cui era sicuro, non era sicuro né l'invio né tantomeno la ricezione e la comprensione da parte del cliente, che quindi difficilmente poteva esercitare, se questo nuovo piano tariffario non era di suo gradimento, appunto esercitare il diritto di recesso. Avvocato Luongo, lei ha definito questa sentenza storica addirittura. La definisco storica perché innanzitutto spesso commentiamo sentenze che annullano provvedimenti dell'autority, invece questa volta il TAR Lazio ha fatto una bella sorpresa ai consumatori. Sono anni che contestiamo l'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, che una manina nel 2003 inserì in questo codice, che prevede la possibilità del cosiddetto repricing, che è il termine incubo per noi utenti della telefonia mobile, cioè la possibilità da parte del gestore di modificare clausole contrattuali, soprattutto i prezzi, i costi, i piani tariffari, dandoci un avviso che molto spesso non arriva, così come molto spesso non arrivano i contratti per le linee ADSL. Non arriva niente, questo è il problema nella telefonia mobile, e non permette questa mancanza di informazioni di esercitare il diritto di recesso. Per anni abbiamo contrastato e lottato contro questa pratica. Il TAR Lazio finalmente ha detto e ha spiegato che uno stringato SMS non basta per informare adeguatamente il consumatore. Ricordiamo, adesso si apre un'altra partita. Esattamente, però. Adesso ne parliamo. Volevo anche ricordare un po' la cronistoria di questa sentenza, perché si parte addirittura dal gennaio del 2009, quando Telecom Italia, cito anche la società, non c'è nulla di male, d'altronde è pubblico, aveva fatto ricorso contro l'autorità garante della concorrenza e del mercato proprio per annullare un provvedimento della Agcom con il quale era stata dichiarata pratica commerciale scorretta la comunicazione a mezzo SMS della variazione di piani tariffari di utenza di telefonia mobile. A Telecom era stata comminata questa sanzione di 500.000 euro, la più alta che l'antitrust può infliggere. Telecom aveva fatto questo ricorso, sosteneva che gli SMS costituissero una mera funzione di alert, quindi di avviso, ma la sentenza del TAR del Lazio ha invece constatato l'assoluta insufficienza e la portata confusiva, peraltro, dice anche, dell'SMS. Avvocato Luongo, tornando appunto a questa sentenza, adesso che cosa cambia? Nel senso che un consumatore che comunque ha un piano tariffario di telefonia mobile con qualsiasi operatore e in ogni caso vede ancora SMS che arrivano con comunicazioni di questo tipo, la sentenza del TAR del Lazio non le inibisce completamente? Che cosa succede? Ma guardi, il problema è anche come è strutturato l'SMS. L'SMS deve essere tale da farmi capire di che cosa si tratta e quantomeno di farmi capire che tempi ho per il recesso. Cosa cambia? In realtà abbiamo richiesto a Telecom e richiederemo nelle prossime ore agli operatori e all'Agcom una riunione per mettere su una disciplina più garantista per quanto riguarda le variazioni dei piani tariffari e le variazioni contrattuali. Speriamo che la cosa non la risolvano i giudici, perché probabilmente Telecom ancora non l'ha annunciato, ma probabilmente farà un ricorso ulteriore, certo, nei confronti del TAR, quindi davanti al Consiglio di Stato. Però noi chiediamo che le compagnie telefoniche responsabilmente si seggano al tavolo delle trattative con i consumatori. Mettiamo tutto nero su bianco, avrebbe un costo irrisorio ma aiuterebbe molto i consumatori e gli utenti della telefonia mobile in particolare a vivere più serenamente il proprio rapporto contrattuale con l'operatore. Tra l'altro poi i tempi di ricorsi e appelli sono lunghissimi, abbiamo visto tutto prende le mosse dall'inizio del 2009, siamo praticamente a metà del 2010, ancora stiamo parlando di questa vicenda. Nel frattempo ovviamente poi le società continuano ovviamente a fare le variazioni dei piani tariffari con le stesse modalità, registrano un sacco di fatturato in aumento, introiti, e nonostante queste pratiche commerciali che qualche volta non sono totalmente corrette, poi chiaramente qui c'è tutta l'ambito dell'interpretazione anche da dare, ma la Agcom è piuttosto chiara, pratiche commerciali più o meno scorrette a volte, di fronte alle quali non ci si può difendere, e nonostante anche l'antitrust poi commini delle sanzioni molto importanti, comunque si va avanti. Sembra a volte appunto questa giungla, avvocato Luongo, della quale abbiamo parlato tante volte, di fronte alla quale non ci si può difendere. Diamo qualche consiglio ai nostri consumatori per avere un rapporto chiaro e trasparente. Cosa può fare il consumatore per averlo con la sua compagnia di telecomunicazioni? Allora, innanzitutto dobbiamo cominciare a capire tutti di avere dei diritti. Questi diritti devono essere fatti valere anche e soprattutto nei confronti del proprio gestore telefonico quando questo si comporta male. Quindi in casi di repricing, in casi di variazioni tariffarie, non comunicate o comunicate con SMS dal contenuto assai generico e vago. La prima cosa che deve fare l'utente è non cancellarlo intanto. Assolutamente no, può continuare a meno che non vi è un addebito automatico, può inoltrare il reclamo, non pagare le somme ulteriori che sono richieste qualora paghi una bolletta, attendere la risposta dell'operatore. Se la risposta non arriva o arriva negativa, attivare la conciliazione tramite un'associazione di consumatori. Sono passaggi semplici, però possono servire e servono, anzi, sono serviti in migliaia e migliaia di casi quando parlavamo di Dyer, a far sì che il diritto del consumatore venga rispettato e venga riconosciuto. Allora, no, peraltro per concludere volevo anche dare un po' di dati rispetto a quante segnalazioni di disservizio presunti illeciti contestati ai gestori telefonici arrivano ogni anno. Nel 2009 sono state circa 30.000 queste segnalazioni, al secondo posto della graduatoria di Agicom con il 15,2% delle contestazioni figura proprio l'attivazione o la disattivazione di servizi di comunicazione elettronica ad insaputa dell'utente. Avvocato Luongo, grazie. Probabilmente con l'appello della società di cui abbiamo parlato questa mattina forse torneremo presto anche a parlare di questa vicenda. Intanto buona giornata. A voi, buongiorno. Arrivederci, a risentirci. Alessandro. Eccoci qua. Oggi ritorno un po' a parlare di risparmio a Salvadanaio e parliamo dei conti di deposito. Benissimo, noi ci ritroviamo ovviamente lunedì mattina per quel che riguarda soldi e dintorni. Parliamo di legittimo impedimento e la scelta del neo ministro Brancher di avvalersi di questa legge, il legittimo impedimento. Domani dovrà iniziare un processo nel quale è imputato. Ma non ci sarà questo processo, o meglio, sarà rinviato. Che ne pensate? Ha fatto bene, secondo voi, il ministro Brancher a valersi di questo legittimo impedimento? L'opposizione ovviamente insorge, ecco il motivo per cui è stato nominato ministro. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora torniamo a parlare della vicenda del neo ministro Brancher, che ieri, hanno fatto sapere i suoi avvocati, ha comunicato si avvarrà del legittimo impedimento. Questo fa bloccare per il momento, posticipare il processo che doveva iniziare domani, per il quale è imputato. È il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Doveva iniziare domani il processo in cui è imputato anche Brancher, accusato di ricettazione e appropriazione indebita, la vicenda per i soldi ricevuti da Fiorani. Fiorani, l'ex banchiere, che in una delle sue dichiarazioni aveva detto, Brancher, la leggo dal giornale, pagina 2, Brancher era fondamentale perché teneva i rapporti tra Forza Italia e Lega. Brancher nel 2003 ottenne un'erogazione sul conto di Luana Maniezzo, che è la sua compagna. Nel 2004 invece ottenne 100.000 euro a mano nel mio ufficio, 100.000 euro anche nel 2005 e 200.000 da dividere con Calderoli. Questo 3 anni e mezzo fa, nell'interrogatorio in cui Giampiero Fiorani, appunto numero uno della Popolare di Lodi, raccontava così i suoi rapporti con Aldo Brancher. Il ministro Brancher, i suoi avvocati hanno depositato ieri la richiesta di legittimo impedimento. E tra l'altro sul Corriere della Sera qualche battuta del neo ministro che dice: qui ho chiesto solo una cosa di buon senso, ragionevole, ma qui si maledice sempre il prossimo. Ci vorrebbe un po' di onestà intellettuale da parte di tutti. I miei colleghi dovrebbero evitare di trasformarsi in giudici su cose che non conoscono nemmeno. Mi giudichino dal mio lavoro. Che cosa devo fare? Devo organizzare il ministero. Per esempio, devo scegliere il capo di gabinetto, gli altri collaboratori. È difficile fare tutto questo e ho intenzione di proseguire. Ha fatto bene, secondo voi, il neo ministro Brancher a chiedere il legittimo impedimento? Ne parliamo. Allora, l'abbiamo richiamato l'onorevole Straquadagno, eccoci qua, del Popolo della Libertà. Buongiorno, ne avevamo parlato qualche giorno fa, eccoci ancora, onorevole. Buongiorno a lei. E saluto il senatore Pancio Pardi, buongiorno, dell'Italia dei Valori. Buongiorno. Straquadagno invece del Popolo della Libertà. Senatore Pardi, lei, come tutta l'opposizione, come la vede questa decisione? Cioè, ecco i nodi vengono al pettine, ecco il motivo per cui è stato scelto a ministro? E infatti l'avevamo già detto, quando passò il legittimo impedimento la prima cosa che si disse è che Berlusconi prima o poi ci avrebbe fatto vedere un qualche ministro in più apposta perché doveva essere protetto dal legittimo impedimento. Ecco che la cosa è successa. Tra l'altro la cosa curiosissima è che l'ha nominato per un ministero inesistente, per cui Bossi ha dovuto dichiarare no, quello non è il federalismo, è un'altra cosa, perché sono io il ministro del federalismo. Cioè, una cosa che se non fosse ridicola sarebbe oscena. Questo anche se, come lei ben sa, e forse è bello dirlo agli ascoltatori, non è che il processo viene annullato, viene posticipato in questo caso di 3 mesi. Sì, certo. E questo fa sospendere anche i termini di prescrizione. Dunque Brancher credo che abbia detto si riprenderà semplicemente il 7 ottobre, se volevano ad agosto, se non erano chiusi i tribunali, io ero pronto anche ad agosto, ma questi 3 mesi mi servono. Poveretto. Perché dice poveretto? Dico poveretto perché si deve arrampicare sugli specchi per poter assumere una posizione pubblica. Poi vedremo cosa succederà da ottobre. Cioè lei teme o pensa che ci sia qualche altro che... Ma è ottobre, può valere, può valere al massimo 6 mesi, credo, legittimo impedimento, no? Vedremo. Ci sarà da ridere. E che dice? Cioè, che, secondo lei cosa c'è allo studio? Cos'è, una nuova legge, un qualcosa? Intanto ci sono nuove leggi allo studio, cioè per esempio ma quello non arriverà in tempo perché ci saranno tempi geologici, ma insomma il lodo Alfano costituzionalizzato protegge il Presidente della Repubblica che non ne aveva nessun bisogno, il Presidente del Consiglio che ne ha moltissimo bisogno e i ministri, i quali ne hanno alcuni pochissimo e altri moltissimo bisogno. Vedremo. Allora, onorevole Stracquadagno, qualche giorno fa lei ci disse qui a questi microfoni, ma non fa gran differenza, in fondo già anche da sottosegretario aveva opposto qualche impedimento per motivi di lavoro e dunque che differenza fa avvalersi del legittimo impedimento? Davvero è tutto così? A leggere i giornali oggi anche il giornale dice è critico, si parla di un autogol, un qualcosa che non si capisce molto bene. Intanto mi tocca correggerla un'altra volta. Siamo alla seconda. Sì, perché lei ha detto che inizia domani. Adesso che la domanda che mi ha fatto si è già smentito. Perché se si è già avvalso del legittimo impedimento, il processo non inizia domani, è giusto? Sì, non inizia domani perché si è avvalso. E quindi vuole dire che il processo è già in corso. E quindi è giusto quello che gli ho detto. Che differenza fa tra prima e adesso? Sì, cioè, nel senso, doveva iniziare domani, forse doveva presentarsi domani. No. Domani c'era un'udienza. C'era un'udienza, ho sbagliato. C'era un'udienza domani. Non è una differenza da poco. Cosa è successo nelle udienze precedenti? Infatti lui ha opposto delle cose. E allora io, infatti, cosa ha opposto nelle udienze precedenti? È quello che lei, infatti, ha detto. Non cambia nulla perché aveva già opposto degli impedimenti per lavoro. Nasce, sa di chi è la prerogativa di legittimo impedimento? Di chi è? Sì. Qualunque deputato. Di qualunque deputato per motivi di lavoro, però questa legge vale per il Presidente del Consiglio e per i ministri. Legittimo impedimento. Sa qual è la differenza tra questa legge e il legittimo impedimento che io posso invocare come deputato? E allora perché è stata fatta questa legge? Scusi, dico, se perché già... non facciamo? Ma perché voi non fate informazione e fate polemica politica? È già voi, la seconda volta. I giornali in genere. No, perché, mi ci metto anch'io tra i giornalisti, voglio dire. Sono giornalista e quindi sono il primo a dire che la nostra è una categoria, una vil razza dannata, perché usa del potere che ha, cioè dare notizie, per in realtà manipolare la realtà. Allora, vediamo le cose come stanno. Nell'essenziale, il legittimo impedimento intanto che cos'è? Una prerogativa di qualcuno che abbia un incarico istituzionale. Noi siamo convinti che un deputato o un senatore abbia un incarico istituzionale, giusto? Sì. Che sia parte di maggioranza o di opposizione, giusto? Che per ragioni del suo ufficio, cioè perché sta facendo il deputato, sta facendo il senatore e è in quel giorno in cui c'è un'udienza processuale, ha un impegno come deputato, come senatore, sì, e quindi chiede non che quell'udienza si posticipi perché fa quell'attività lì. Facciamo un esempio banale. Supponiamo la scorsa legislatura, quando la maggioranza centrosinistra aveva 2 voti di vantaggio al Senato. Immaginiamo che 3 senatori avessero un giorno in cui c'era una votazione di fiducia una convocazione a un'udienza processuale come testimone. Sì. Che cosa avrebbero fatto? Sì, lei dice. Invocato un legittimo impedimento. Ma allora le chiedo, Stracquadagno. Allora io dico, Brancher, questa legge lo sistematizza il legittimo impedimento. Sì. E dice che per alcuni uffici dove c'è una continuità di attività, dove legittimamente si è impediti per un tempo un po' più lungo, per 6 mesi, pensi che rinvio, in un paese dove i processi durano 10 per 6 mesi anni, si può chiedere, cioè, di posticipare l'udienza. È stata fatta la legge solo per sistematizzare una cosa che c'è già. Ovvio, ovvio. Vabbè. E invece si pensa che questa, che la parola legittimo impedimento sia una sorta di... Vabbè, ma lei che, guardi, allora, i più critici dico, dobbiamo oggi... uscire, no, mi perdoni. Il giornale, guardi che è molto critico, modo... Il giornale. Sì, ma perché, cioè, scusi, il giornale non scrive mai cazzate, secondo lei? Ah, oggi ha scritto secondo me cazzate. Anche il giornale può scrivere cazzate. Cioè, io non credo che esista la fonte della verità, Non è il giornale, non è Libero. Ieri ho fatto una polemica durissima con Libero. Mm. Quindi, per me i giornali... io sono amico di direttori di centrodestra, di centrosinistra, di estrema sinistra, sono amico di Luca Telese del Fatto, che mi ha recentemente intervistato, sì. Quindi non ho nessun pregiudizio positivo o negativo verso in questo caso, cioè, c'è una disinformazione. E senatore Pardi, dico che si legge, si leggono le cose in termini va bene, politici. Va bene, questa, senatore tutto Pardi, cioè, che se ci avesse un po' più di voglia di analizzare le cose dal punto di vista politico e di quello e tecnico, che è accaduto, non solo tecnico per quel che riguarda la giustizia, ma politico, di quello che sta accadendo nella Lega e della necessità del Presidente del Consiglio di avere un proprio uomo di fiducia su questa questione del federalismo, si capirebbe qualcosa di più anche per quel che riguarda la stabilità e le prospettive. Ah, ma magari la questione politica e sociale, ma siccome non interessa nessuno ormai la politica, tutti sbirciano dal buco della serratura. Siamo tutti degli sbirciatori. Divertiamoci a sbirciare dal buco della serratura quando la porta è spalancata. Senatore Pardi, è la questione solo politica? Oppure, cioè, il Quadano dice questa legge sul legittimo impedimento ha solo sistematizzato una cosa che c'è già, cioè anche lei, senatore Pardi, se venisse imputato potrebbe dire io sono senatore, devo fare una cosa e quindi non posso andare a quell'udienza. Stracquadagno è uno specialista nel consumare il tempo inutilmente, ne ha occupato moltissimo per dire una banalità totale e falsificare le cose. C'è un'enorme differenza, il legittimo impedimento non sistematizza, automatizza. Il legittimo impedimento precedente deve essere vagliato, il giudice si mette di fronte alla cosa e dice è vero o non è vero, guardiamo, vediamo, cerchiamo di capire. Qui la cosa è automatica, il soggetto inquisito sotto processo certifica da se stesso, diciamo siamo nella Repubblica del conflitto di interessi, certifica la propria impossibilità e se ne va via. La cosa è molto semplice, Stracquadiano fa un sacco di discorsi ma solo per menare il campellaio. Sentiamo Paolo dalla provincia di Palermo, 800240024. Paolo, che casino, dov'è Paolo? Ma, no, non era dovuto a me. Dica. Forse c'è un eco di... Forse i casini no, però c'è un eco, c'è un eco insopportabile. Paolo, deve spegnere la radio. Pur non di meno, adesso è sistemato tutto? Sì, benissimo, dica. Ok, buongiorno a tutti. Allora, o sono io cretino o sono gli altri troppo furbi. Il punto non è se ha fatto bene il nuovo ministro ad avvalersi di questo cavillo. Il punto è che non doveva nemmeno essere fatto questo nuovo ministero, perché è chiaro, è lampante, è una cosa proprio che si percepisce proprio a pelle, che è stato fatto il nuovo ministro per evitare i suoi problemi con la giustizia. Perché, le ripeto, o sono io cretino o sono gli altri troppo furbi. Ormai abbiamo capito tutti come funziona la politica. Spero che continuino così, ma che continuino a fare cose ancora più gravi di queste, in modo che ritorni qualche bella rivoluzione, perché adesso siamo stanchi, che i soldi alle persone li levano senza chiedere permesso a nessuno, loro fanno i loro vizi, i loro stravizi e continuano sempre. Scusate un po' di demagogia, ma purtroppo la demagogia quando viene fatta dal popolo è demagogia, quando viene fatta dai grandi non è demagogia. Va bene, grazie. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, detto che alla domanda ha fatto bene secondo voi il neo ministro Brancher a valersi del legittimo impedimento, l'89% però risponde di no. Onorevole Stracquadagno, lei un paio di giorni fa, quando ce ne siamo occupati, ci ha spiegato non è un nuovo ministero perché non c'è un dicastero, è stato diciamo promosso a ministro ma non c'è una struttura dietro. Allora, come mai Brancher dice devo nominare il capo di gabinetto e non ce l'ho? I miei collaboratori costeranno questi? Avranno uno stipendio? Sono già nei ruoli dello Stato. Non costeranno un euro in più? Li sposta. Li sposta. Ha presente che cos'è la mobilità all'interno dello sì, Stato? Sì, Ma perché l'opposizione dice costa un milione? Le palle piene, ne ho un po' le palle piene, sì, di questa informazione. Lei sa cosa ho fatto io negli ultimi ma io non è che io le faccio delle domande. L'opposizione dice che costa un milione di euro. Lei dice di no. Come faccio? Calcolato? Ma che ne so io? Lo chiedo, allora lo documenti. Allora io dico che l'opposizione ci ha fatto spendere questa notte, l'altra notte, nell'aula del Parlamento per stroncare l'ostruzionismo dell'Italia dei Valori. Siamo stati svegli 72 ore di fila per stroncare un ostruzionismo inutile. Abbiamo speso 2 milioni di euro di costi parlamentari e questa è colpa degli amici del senatore Pardi che per nascondere le loro magagne dove hanno distratto i soldi del finanziamento pubblico ed erano sui giornali, si sono inventati un ostruzionismo sul decreto di riforma degli enti lirici inutili che è costato 2 milioni di euro agli italiani. E come mai 2 milioni di euro? Per una notte. Tenere aperta la Camera. Una notte. Giorno e notte, costa straordinari. Due milioni di euro una notte. Sa quanto costa, una notte, tre notti di fila, sa quanto costa tenere aperta la Camera una giornata? Beh, è tanto. Costa 100.000 euro tenerla aperta la giornata, la notte si paga tripla o no? Senatore Pardi, l'informazione deve guardare le cose. Ancora questa cosa dell'informazione. Ma non credo che stiamo facendo disinformazione. Io ne ho, veramente, e questo è un paese che vive di propaganda, che vive di propaganda avvelenata. Beh, però, allora, lei dice che la propaganda è sempre... Sul Corriere di oggi, di 72 ore di lavori parlamentari, a cui ci hanno costretto gli amichetti del senatore Pardi, ci sono tre righe sul fatto che l'onorevole Di Pietro si è addormentato due volte. Sì, comunque lei dice che la disinformazione sembra sempre che stia, o la propaganda sempre che stia dall'altra parte. Senatore Pardi, lei che ride, Io direi a Straquadagno, per evitare di diventare una macchietta, che metta immediatamente su una scuola di giornalismo, perché vedo che la sua passione principale è insegnare ai giornalisti a fare i giornalisti. Invece trovo che c'è qui un argomento secondario, ma non del tutto secondario, che però è importante, ed è la questione del Ministero dell'Industria e della Comunicazione. Se c'era un ministro che bisognava elevare, era il ministro di cui oggi il Presidente del Consiglio occupa il posto, perché ha preso l'interim dell'industria della comunicazione, tra l'altro creando così un doppio conflitto di interessi, perché lui già in conflitto di interessi essendo Presidente del Consiglio. Ma come ministro dell'industria e delle comunicazioni deve prendere decisioni specifiche sulla RAI, quindi diciamo ha un conflitto di interessi raddoppiato. Se c'era un ministro da fare era quello, invece no, Berlusconi quel ministero continua a tenerselo stretto con l'interim e crea questa specie di ministro fantasma. Io capisco, Brancher deve essere in fortissima difficoltà psicologica, perché è un ministro senza essere ministro, non c'ha il capo di gabinetto, non c'ha il dicastero, come dice analiticamente Straquadagno, però francamente siamo in una situazione grottesca, questa è la realtà. Allora sentiamo Gianluca da Brescia, buongiorno. Veloci, che così il tempo corre. Un intervento breve e polemico. Sì. Perché non estendiamo il legittimo impedimento anche, non so, agli impiegati commerciali, ai pescatori, ai guidatori di conducenti di autobus? Ognuno ha un impegno. Lei che lavoro fa? È pescatore? No. No, sono un impiegato commerciale. Ah, ecco, avevo il sospetto. La giornata è fatta di appuntamenti. Legittimo impedimento, perché non estenderlo anche agli altri a questo punto? Va bene, grazie Gianluca. Domenico da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire che è ora che la finiscono questi signori qua di prenderci per i fondelli, perché io che faccio carrozziere per presentarmi in tribunale ho il rischio che se non vado mi vengono a prendere i carabinieri solo per fare una testimonianza, per testimoniare. Sì. Questi invece che stanno rovinando l'Italia possono permettersi il lusso di non presentarsi in tribunale. È una grandissima buffonata. Grazie Domenico. Senta, però senatore Pardi, è vero, è la seconda volta, stavolta però non al Senato ma alla Camera, lei non ha passato la notte. L'altra volta avevate fatto l'occupazione del Senato. L'altra volta ho passato la notte. L'altra volta, come occupazione. Stavolta l'ente dice alla Camera. Straquadagno dice con questa buffonata avete fatto spendere soldi straordinari bloccando. Questa è un'obiezione totalmente fasulla. La Camera deve lavorare, ci mancherebbe altro che non lavora. Beh, allora l'ostruzione l'avete fatta, l'ostruzione. La Camera non lavora per non stare aperta. Capisco che Berlusconi e i suoi lacchè, certo, pensano che il Parlamento non serve a nulla, per cui se il Parlamento sta chiuso per loro è meglio. Però, insomma, diciamo, è un ragionamento che si giudica da sé. Onorevole Straquadagno, mi vuole spiegare allora, su tutti i giornali oggi ci sono i gran mal di pancia della Lega. Allora, anche questa è informazione scorretta. Allora, i mal di pancia della Lega si possono spiegare, sì, se qualcuno avesse la curiosità di capire cosa sta succedendo dentro la Lega. E la curiosità di quello che sta succedendo dentro la Lega è, se, dovrebbe spingerci a, a guardare come mai, per esempio, nella scorsa seduta, settimana alla Camera dei Deputati, su un tema di grande rilevanza, il codice delle autonomie, il testo che aveva predisposto il ministro Calderoli, che avevamo approvato in prima commissione dopo un lavoro di alcuni mesi, è stato stralciato di alcune parti perché la commissione bilancio di Camera, che è presieduta da un altro esponente leghista di primo piano, che è Gianluca Giorgetti, ci ha costretto a stralciarne una parte per ragioni di natura finanziaria. Allora, tutto questo fa parte non soltanto della normalità della politica, perché la politica non è un processo di tipo lineare. Prima che si approvi o sì, non si approvi qualcosa, c'è una discussione, e questo si chiama democrazia. Sì. Ci piace che rimanga o no? Ecco, allora, però ci sono anche aspetti che riguardano alle strategie che ogni singolo partito ha al suo interno, sì, e che vedono anche dei conflitti. Nella Lega c'è una grande abilità nel non portare all'esterno i propri conflitti interni, cosa che non c'è per esempio nel PDL, sì, che ha una, o nel PD, che hanno una, un livello di trasparenza sin eccessivo per certi casi, per cui diventano conflitti anche fatti che non sono conflittuali. Ora, nella Lega esiste un problema di divergenza di linee su come andare a impostare il problema del federalismo fiscale. Quindi è questo che sta venendo. È questo, fuori. Allora, in questo elemento di divergenza di linee, devo chiudere. Come presidente del Consiglio si deve preoccupare anche della stabilità del suo governo, avere un proprio uomo in Consiglio dei Ministri che regola questo problema è fondamentale ai fini sento che Pardi borbotta, ma io devo chiudere. Pardi borbotta perché Pardi è un sospettoso per quello che riguarda gli altri. Lei è un sospettoso, ma non lo è per quello che riguarda lui. Devo chiudere. Io vorrei che dedicasse la sua al finanziamento del DDV. Devo chiudere qua. Vi sfumo tutti, grazie a tutti stasera, la Zanzara, Carmelo Lauricella in regia, Sara Spiafico in redazione, lunedì, ciao.